1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Amici, forza, che sono le 7:18 minuti in punto e si conclude oggi la 152esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Anche questa non ha portato il risultato tanto sbandierato, ma la 153esima è alle porte e noi siamo qui a dire dai, forza, magari una promessa fatta da 20 anni verrà poi mantenuta alla 153esima settimana decisiva di questa legislatura. Siamo pronti a leggere i giornali? Dai, tuffiamoci. Non c'è niente di divertente che commentare i giornali, ragazzi. Effettivamente è un po' così. Allora, siamo a venerdì 1 aprile, attenzione, non avete fatto pesci, pescioni, pescetti, pesciozzi? No, non, devo vedere se sui giornali, adesso devo far mente locale perché ho letto qualche notizia strana sui giornali, devo capire se qualche notizia di quelle strane passate dai giornali potrebbero essere in realtà dei pesciolini, insomma. Vabbè, certamente non lo è l'apertura e la notizia con cui tutti i quotidiani aprono: le dimissioni del ministro dello sviluppo economico Guidi, sotto accusa per la telefonata al compagno che è indagato. In questa telefonata assicurava il compagno: l'emendamento passa domani, un emendamento che poteva interessare, sicuramente interessava al compagno e alle aziende del compagno. E allora eccoci qua, inchiesta sul petrolio, la Guidi lascia, il titolo di apertura del Sole 24 Ore, anche se la ministra dice io in buona fede. Per il Corriere della Sera: Guidi si dimette, caso nel governo. Repubblica: petrolio appalti, Guidi si dimette, tradita dalle telefonate al fidanzato. La Stampa: Guidi se ne va, Renzi non la ferma. Per Libero: il regalo del governo al fidanzato del ministro. Il Giornale: la ministra garantiva gli affari del suo uomo. Come vedete i titoli sono tutti simili. Il Fatto Quotidiano mette addirittura questo neologismo: scandalo petroli, via la Guidi per la norma ad fidanzatum. Per il Secolo XIX: una telefonata costa il posto a Guidi. Il Giorno: Guidi intercettata si dimette. Avvenire: rifiuti, veleni, lobby, compagno indagato, il ministro Guidi si dimette. Il Manifesto: Pozzo Nero, ed è l'inchiesta della Procura di Potenza che ha portato le dimissioni del ministro Guidi. L'Unità invece mette in prima pagina: poveri imprenditori, i padroni dichiarano, almeno ci sono le virgolette, dichiarano sui padroni, dichiarano in media 18.280 euro l'anno, meno dei dipendenti 20.520 euro. Questa è l'apertura dell'Unità. Ma voglio partire da altro, la vicenda Guidi la vedremo tra poco. Il Cardinal Bertone e il suo attico, o meglio superattico, che poi lui smentisce essere un attico, dice un appartamento, e l'attico è in comune in realtà, ci passano tutti. Oggi fa un'intervista al Corriere della Sera. Comunque, Bertone, secondo l'Espresso, affirma Fittipaldi, Emiliano Fittipaldi, colui che ha scritto anche il libro per cui è sotto processo in Vaticano, l'Espresso dice inchiodato, e c'è la foto di Bertone, del Cardinal Bertone, in prima pagina, e cioè ecco i documenti che smentiscono Bertone. Sapeva che i lavori del suo lussuoso attico erano pagati coi soldi dell'ospedale Bambin Gesù. Perché Bertone ha sempre detto, la classica formula, al limite sono stati pagati a mia insaputa, a mia insaputa. Ecco, qualcuno potrebbe pagare a mia insaputa la multa da 28,70 euro che ho preso per ennesimo divieto di sosta ieri sotto casa. Rispondo a tutti quelli che, tra l'altro, scusate la parentesi, che mi hanno insultato: ah, culo flaccido, vai senza macchina al lavoro. Era a casa, quindi parcheggiata sotto casa, in divieto di sosta, certo, lo ammetto, è sotto casa, quindi non è che sono culo flaccido. Magari sono culo flaccido, tu non lo sai, caro ascoltatore, magari tua sorella lo è, non lo sappiamo, magari tu. Comunque non ho preso la macchina e l'ho messa in divieto di sosta, ho infranto qualche norma, era sotto casa per l'ennesima volta quel divieto di sosta. Pagherò, tranquilli, a mia saputa. Comunque, attico di Bertone, torniamo alle cose che contano. Il Vaticano apre un'inchiesta. Virginia Piccolillo ne scrive sul Corriere della Sera, come tutti i giornali che riprendono l'inchiesta dell'Espresso, ma sul Corriere della Sera c'è di più, c'è un'intervista appunto al Cardinal Bertone. Eminenza, sono anni che l'accusano per questo appartamento, inizia così Gian Guido Vecchi, non le è mai venuta voglia di lasciarlo, andarsene e buonanotte. Guardi, forse per me potevo pure tornarmene al mio paese, ma ho qui del lavoro e resto perché sarebbe come dargliela vinta a tutti quelli che mi attaccano, agli avversari che vogliono solo quello. Insomma, il Cardinal Bertone, al di là dell'amarezza per quelle che definisce calunnie contro di me, non ha intenzione di arretrare di un millimetro. Al contrario, nelle lettere si esclude ogni coinvolgimento economico della fondazione. Io ho versato 300.000 euro. Solo dopo sono saltati fuori pagamenti ulteriori, eccolo qui a sua insaputa. E si parlava di 200.000, ora viene fuori che sarebbero 422.000 euro, più del doppio. Di queste manovre, di questa filiera di pagamenti, io non sapevo assolutamente nulla. Insomma, ribadisce il Cardinal Bertone al Corriere, gli hanno pagato forse non 200.000 ma 422.000 euro e di questa filiera di pagamenti, bella come definizione, non ne sapevo nulla. L'appartamento non è un attico, io sto sotto al terzo piano, il terrazzo è condominiale, ci passeggiano tutti gli inquilini. E mi hanno ringraziato per i lavori, li ho fatti perché era così disastrato che filtrava l'acqua. Quando ci abitavo mi pioveva in camera da letto. E poi eccola qua che butta il sassolino il Cardinal Bertone. Questo appartamento grande mi fu assegnato d'accordo col governatorato e col Papa. Non è questione di grande o piccolo, era libero. Del resto le metrature degli appartamenti disponibili tendono ad essere ampie. Ai tempi li facevano così, ai tempi, le vecchie regge. E ci sarà comunque, dice Bertone, ecco la maledizione di Bertone, viene la tosse, ci sarà una trentina di cardinali che vive in appartamenti anche più grandi del mio. Bertone, non me ne vado, io qui lavoro e 30 cardinali hanno case più grandi di me. L'intervista al Corriere della Sera. La Repubblica invece, che l'ha contattato, dice: sono inchiodato alla croce, crocifisso ogni giorno per questa storia. Il Cardinal Bertone. Ricordate che secondo l'inchiesta quei soldi, 422.000 per il Cardinal Bertone, erano dell'ospedale Bambin Gesù, cioè per i bambini malati. Ecco, questo è l'aspetto più serio secondo me, secondo l'accusa. Invece di darli ai bambini malati, li diamo all'attico, pardon, al terzo piano con attico condominiale di un cittadino. Chiamiamolo così, non lasciate stare di un cardinale, di un cittadino. Comunque, l'anagramma di Stefano Bartezzaghi, straordinario come sempre, su Repubblica, Tarcisio Bertone, anagramma di Tarcisio Bertone, Ber Rosé in attico. Beh, non male, Ber Rosé in attico, Tarcisio Bertone, è l'anagramma. Allora, questa storia invece è terribile, quella dell'infermiera che avrebbe iniettato eparina, l'avete sentito, non è neanche il primo caso se accertato. Fausta, infermiera di Piombino, che avrebbe iniettato del veleno uccidendo 13 pazienti. 13 pazienti che non erano gravi, erano anziani, dal 61, quindi anche giovani, agli 88 anni. Lei dice: sono solo un capro espiatorio, quando è stata arrestata. Non è vera, c'è l'accusa del figlio di una delle presunte vittime, Francesco Valli, figlio di Marcella Ferri, che un giorno arriva, vede l'infermiera che sta facendo un'iniezione a sua madre, entra e dice: ma scusi, questa iniezione a che serve? Così almeno dorme. È solo che nel giro di un'ora la madre, anziana, 87 anni, è vero, ma stava bene, dice lui in un'intervista alla stampa, è morta. Ho avuto la percezione che stesse male dopo l'iniezione. Sono andato da un medico in un'altra stanza a chiedere di venire a controllarla. Lui mi ha risposto malamente. Vedo tutto dal monitor, non ce n'è bisogno. Cosa gli sarebbe costato? Invece mi hanno tranquillizzato, mi hanno detto di non essere ansioso, di andarmene a casa. Ehi, cosa potevo fare se non fidarmi di medici, infermieri? Invece ho aperto la porta dell'appartamento, mi sono seduto, mi hanno chiamato. Sua nonna è morta. Ma come? Sì, è peggiorata. Ma come è peggiorata? Ve l'avevo detto che stava male, mi avete risposto di non preoccuparmi. Insomma, sono tornato subito indietro in ospedale e mi hanno detto è peggiorata ed è morta. E il sospetto da lì è nata l'inchiesta e ora l'arresto di questa infermiera Fausta Bonino, 55 anni, reparto di rianimazione a Piombino, accusata della morte di 13 pazienti tra il 2014 e il 2015. Oh, dopo queste brutte storie vi devo dire una bella storia. È la storia di Rodolfo Marasciuolo. Rodolfo Marasciuolo, chi è? A Torino forse lo conoscete. Ne racconta La Stampa, Letizia Tortello in prima pagina. Lui è un operatore ecologico, uno statale, ma ha deciso che i giardini pubblici sono il suo giardino, il giardino che lui ha sempre sognato in una casa e non ha mai avuto e mai avrà. E quindi, visto che sognava una casa con giardino, ora dice ho il giardino più grande di tutti, i parchi della mia città. E che cosa fa? Non tiene semplicemente pulito, fa delle straordinarie sculture in legno, in ferro battuto, in ferro, usando materiale di riciclo e abbellendo tutto in maniera gratuita, abbellendo i parchi, i parchetti, i giardini di Torino. Ha detto al verde pubblico con le mie sculture regalo emozioni, ce n'è una in piazza Callalberto, Biblioteca Nazionale, i giardini La Marmora, ma sono straordinari, io non li ho mai viste, voi che siete di Torino forse le avete viste dal vivo. È l'uomo che trasforma i parchi di Torino in un romanzo d'amore a puntate. Amo raccontare fiabe leggere, dice questo operatore ecologico, lo spazzino, Rodolfo Marasciuolo. Voglio regalare un sorriso a tutti, alle bimbe dai 4 ai 100 anni. E quindi dietro al lampione degli amanti ho fatto un pozzo con un secchio e dentro un principe rospo. E mi auguro che baciandolo le donne trovino o ritrovino l'amore. Insomma, rende straordinari i giardini che già sono dei luoghi straordinari e magici con le sculture con le quali regalo emozioni. Beh, la sua storia è raccontata in prima pagina della Stampa, davvero straordinaria. Mentre in prima pagina di Libero c'è l'articolo che mi fa pizzare della giornata. Andrea Morigi racconta, in realtà l'ha scoperto il giornale La Nuova Bussola Quotidiana grazie alla traduzione dall'arabo della traduttrice Valentina Colombo, ma è ripreso da Libero, arriva a maggio un imam in Italia per una tournée, si chiama Tarek Mohammed al-Salal Suwaidan, è kuwaitiano, ed è un predicatore bandito da Belgio, Stati Uniti, Gran Bretagna per i sermoni durante i quali annuncia il ritorno del califfo, che lui traduce come leadership, e dice che è un sostenitore dichiaratamente dei fratelli musulmani, insomma, dicono coloro che lanciano questo allarme, è un sostenitore dell'estremismo islamico. Arriva a maggio l'invito da Como a Reggio Emilia per colui che profetizza il califfato anche in Italia. Non è possibile una roba del genere, vergognatevi, cazzo! Alessandro Milan, per l'uomo che non deve chiedere mai. Allora, eccoci qui, le 7:33 minuti, riaccendiamo i riflettori sulla questione politica, riannudiamo i fili sull'apertura di tutti i quotidiani, cioè le dimissioni del ministro Federica Guidi, ministro dello sviluppo economico, dimissioni che sono state comunicate ieri attorno alle 20, non dico questo orario a caso, tra poco capirete perché. Insomma, una telefonata intercettata, un'inchiesta della Procura di Potenza su un impianto petrolifero e in una telefonata intercettata Federica Guidi parla con il compagno che è indagato e dice e lo assicura, garantisce che sta per passare un emendamento nella legge di stabilità. un emendamento che è favorevole anche evidentemente, secondo le accuse, alle aziende del compagno che appunto opera nel campo petrolifero con queste due aziende. E quindi, per una questione di opportunità, Federica Guidi, dopo aver sentito Renzi, che nel frattempo è negli Stati Uniti, si è dimessa. Inchiesta sul petrolio, Guidi si dimette. Pagina 3 del Sole 24 Ore, Emilia Patta parte dal comunicato dell'ex ministro a questo punto. Caro Matteo, sono assolutamente certa della mia buona fede, della correttezza del mio operato. Credo tuttavia necessario, per opportunità politica, rassegnare le dimissioni da incarico di ministro. Sono le 20, le prime notizie dell'intercettazione tra Guidi e il suo compagno Gianluca Gemelli, titolare di due società che operano nel settore petrolifero indagato a Potenza, cominciano a circolare sui media in tarda mattinata. In mezzo ore di silenzio da parte del governo, di tutto il PD, compresa la minoranza, che fanno presagire l'esito della vicenda. Solo Cuperlo nel PD lancia questa riflessione: dopo due anni di vita di questo esecutivo è venuto il momento di fare un tagliando. Vedo un po' troppo familismo, una concentrazione di potere in poche mani. La verità, scrive il Sole, come tutti i giornali, che Renzi, informato di questa notizia, è piuttosto contrariato e dice subito: è indifendibile ai suoi collaboratori. Questo dice il ministro Guidi, che infatti si dimette. Il problema è che in questa intercettazione, come hanno fatto notare tutti i giornali, c'è anche un altro ministro che non è la prima volta che viene tirato in ballo in polemiche politiche, il ministro Boschi, Maria Elena Boschi, perché in questa telefonata di Federica Guidi al compagno, Federica Guidi dice: l'emendamento passa, anche Maria Elena è d'accordo. In Senato dovremmo riuscire a mettere dentro quell'emendamento che mi hanno fatto uscire quella notte alle 4 di notte, continua Guidi nella telefonata intercettata. E ricostruendo l'iter dell'emendamento incriminato, i parlamentari più vicini a Renzi notano come la ministra Guidi avesse cercato di inserirlo già nello sblocca Italia per sbloccare l'impianto di Tempa Rossa. Allora, ovviamente le polemiche ci sono ovunque. Fiorenza Sarzanini racconta, studiando le carte, pubblicando le carte a pagina 5, lo mettiamo al Senato se Maria Elena è d'accordo. Questo è il titolo, il sunto della telefonata. La chiave poi della storia, scrive Fiorenza Sarzanini, qual è? Che dopo questa telefonata il compagno di Federica Guidi, Gianluca Gemelli, invia al dirigente della Total, Giuseppe Cobianchi, un SMS. Le confermo che Tempa Rossa è stata definitivamente inserita come emendamento nel governo della legge di stabilità. Buon weekend, Gianluca. Dunque il governo ha dato il via libera, l'affare si può concludere. Ed è qui il succo dell'ipotesi della inopportunità che il ministro stesse ancora al suo posto. Certo, ci sono le polemiche appunto per il coinvolgimento anche di Maria Elena Boschi. Per la verità, in questa vicenda c'è un altro personaggio che, a mio modo di vedere, si staglia in maniera impressionante e come uno spaccato possibile dell'Italia. È un personaggio minore, beh, ci arriveremo tra poco. Intanto è interessante anche il retroscena di Goffredo De Marchis e Carmelo Lo Papa su Repubblica, pagina 3, che vanno a intercettare gli umori in casa Renzi. Gli umori in casa Renzi dall'America, da Boston, sono questi: non puoi reggere. Così Renzi al telefono con Federica Guidi gli dice: devi dimetterti. Ed ecco qui che torna l'orario delle 20 che vi avevo detto, perché Renzi dice: devi dimetterti entro il TG delle 20. Guardate che la comunicazione è fondamentale nello storytelling. E allora, prima che arrivassero i TG, i telegiornali, dai quali la maggior parte delle persone in Italia acquisiscono le notizie della giornata, ecco che per disinnescare qualsiasi potenziale grana ulteriore, Renzi ha detto: dimettiti e in fretta. E così è successo, è arrivata la comunicazione poco prima delle 20. E pare che Renzi abbia anche reagito così: non ci voleva, mi è arrivata sta cosa tra i piedi. E alcuni renziani abbiano detto: è inaccettabile che ci abbia nascosto che tipo di affari facesse il compagno. Qui verrebbe anche da pensare: ma davvero non si sapeva? Bah. mi sembra francamente poco sostenibile. Comunque ho parlato con Federica, racconta Renzi e i suoi, una persona per bene, ha capito e non ha fatto resistenza. Insomma, l'idea è quella di così disinnescare tutte le problematiche. Dicevo però di un altro personaggio che erge, a mio modo di vedere, incredibilmente, ed è lei, un sindaco, una sindaca, se volete. Si chiama Rosaria Vicino, del Partito Democratico. È il sindaco di Corleto Perticara. Giuseppi, sentite qua, la sindaca dettava legge, pagina 7 di Repubblica. Ai manager del petrolio diceva: assumete e fatemi felice. Rosaria Vicino dava proprio i nomi. Giuseppina la voglio assunta alla mensa della scuola. Nicola, Rocco, Carla, Rocchina, Immacolata, mi raccomando. Poi Salvatore me lo devi mettere al numero uno, tiene la terza media, ma è come fosse un diplomato, intelligente, bravo. Per il pane devi pigliare da De Angelis, è un fornaio di qui, bravo, prezzo buono. Insomma, deve essere chiaro, il nostro ruolo di sindaci è diventato l'ufficio di collocamento e voi a me dovete tenere sempre contenta. Questo è il succo di un'intercettazione di Rosaria Vicino, ex sindaco di Corleto Perticara, di cui scrive Repubblica: sarà necessario parlare a lungo di lei, del suo paese, la cui storia è lo straordinario spaccato di una provincia semplice e corrotta, il romanzo un po' criminale di un paese di 2500 abitanti, 1256 nuclei familiari rassegnati all'estinzione che invece improvvisamente trovano il petrolio. E allora il pozzo deve essere per tutti, predicava il sindaco. Sindaco che tra l'altro un giorno prende la macchina dei vigili per andare dal parrucchiere e dice, di fronte alle proteste del capo dei vigili: io sono il sindaco e quindi capo della polizia municipale, quindi prendo la macchina e faccio quello che voglio. Sindaco di Corleto Perticara, Rosaria Vicino. E poi a un certo punto dice: quell'altro mi aveva detto di prenderne uno, di assumerne, cioè, e non ne ha preso nessuno. Ma che scostumato, che vergogna. Vabbè, ma ragazzi, scusate, a me viene anche da sorridere, lo so che bisognerebbe piangere, affogare nelle lacrime di questi spaccati d'Italia che a volte sono insopportabili, ma a me viene da sorridere, non so, io reagisco così, è meglio reagire così, no, piuttosto che disperarsi. Corleto, la capitale del Texas tra appalti, assunzioni e parenti. Anche Antonello Caporale sul Fatto Quotidiano si racconta di Rosaria Vicino, Miss Clientele, già soprannominata. In un colloquio con i manager della Tecnimont diceva: da qua non uscirà carta finché voi, puntini puntini, finché voi cosa? Il fornaio, prezzo buono. Prezzo buono dal fornaio. Oh, caro Mauro Meazza, anche tu sorridi? Sì, o ti disperi? Ti devo fare, tu mi interroghi sempre, adesso ti interrogo, hai preso i biglietti? Quali biglietti? Eccolo là, vedi, sapevo. Che biglietti devo domenica prendere? Domenica 10 aprile, fammi fare questo momento autopromozionale, domenica 10 alle 20.45 torniamo con Platone, io e Leonardo Manera e tante altre straordinarie figure al Manzoni di Milano. Oh, ma caspita, ma... un po' più di stupore, Ma come è calata calato il cartellone del Manzoni? No, voglio dire, no, non naturalmente per Leonardo Manera, no, ma... certo vabbè, per me, ognuno si sceglie gli amici e i compagni, dai, vai lì comunque, www.teatromanzoni.it e compra i biglietti come tutti gli ascoltatori, vi aspettiamo. 10 aprile. Guarda, intanto ci penso, leggo solo le 24 ore di oggi e poi magari decido grazie. Di questi biglietti. Comunque ti ringrazio, ho già avuto l'occasione di vederti anche se su palcoscenici più ridotti, esatto. devo confessare. Va bene, se finiamo questo siparietto personale, sì, però sì, Alessandro, magari diamo delle informazioni più utili. No, perché a proposito di teatro, sai che ci sono 100 milioni per andare al cinema, cioè non nel senso che se ci andiamo ci danno 100 milioni. È stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento che assegna appunto questi 100 milioni di sostegno alle produzioni e alle sale cinematografiche. Ah. Dove te ne parliamo oggi su Sole 24 Ore? Non dici niente se lo indovini. Enorme tributi. Ma no, bravissimo, che tu stai leggendo già religiosamente. Ricordati, sì, sempre. Sì, sì. Domani leggi avidamente Plus, il settimanale per il risparmio, mi raccomando, sì, domani con il Sole 24 Ore. Oh, poi ti voglio dire, sempre enorme tributi, ci sono i tassi per il credito agevolato di aprile. Tu non ne capisci l'importanza, io forse neppure, ma ti assicuro che la sua importanza ce l'hanno. E poi, sempre a proposito di sconti, oggi venerdì voglio fare regali e sconti a tutti. Bonus mobili per le giovani coppie. Finalmente ci sono le disposizioni, le istruzioni per l'attuazione e quindi c'è questo bonus, mi pare sia attorno ai 16.000 euro addirittura, per l'acquisto di mobili di giovani coppie. Tutto quanto su norme e tributi, naturalmente in evidenza la decisione delle sezioni unite sul falso in bilancio. Molto importante, leggi Donatella Stasio e medita attentamente. Ti voglio poi segnalare, oltre a naturalmente a farti tanti cari auguri per un sereno pomeriggio della domenica, sì, calcistica. Voi con chi giocate? Noi ci impegneremo poi la sera, vediamo un po', prima vogliamo venire a vedere cosa fate voi e poi magari decideremo. Oh, ti voglio poi segnalare naturalmente di non trascurare mai, mai la pagina delle materie prime. Mm-hmm. Oggi la trovi nella parte delle pagine di finanza e devi sapere che oggi segnaliamo come questo trimestre sia stato un trimestre di grandi recuperi, di grande recupero di quotazioni per l'oro, è salito del 16%, ma se Bellomo ti spiega tutto da par suo. Infine malino invece i prezzi, risalendo un po' così dal fondo nella lettura del Sole 24 Ore di oggi, sono purtroppo ancora in segno negativo, meno 0,2, non è una bellissima notizia. E poi invece troverai, oltre naturalmente alla vicenda del ministro, anzi ex ministro Federica Guidi, anche naturalmente la designazione di Vincenzo Boccia alla presidenza di Confindustria, ma soprattutto le dichiarazioni dei redditi. L'IRPEF, dove sono anche i tuoi due eurini. Cerca bene, perché vedrai che lì dentro ci sono anche i tuoi due eurini che tu così tignosamente trattieni. Ma non trattengo invece io più gli ascoltatori, allora rinnovando i miei cari auguri, caro Alessandro. Anche a te. Tutto ciò premesso. Traffico! Alino Milan e il Prestinè dell'informazione. E allora qua il Prestinè alle 7:48 minuti, diceva appunto Mauro Meazza, della designazione di Vincenzo Boccia come nuovo presidente di Confindustria, presidente designato. Nicoletta Picchio racconta come è andata l'elezione, continuità e cambiamento, questo è il titolo di pagina 5 del Sole 24 Ore. Chi è Vincenzo Boccia? Salernitano, sposato, due figlie, ha già ricoperto cariche all'interno di Confindustria, vive a Monte Cagnano, provincia di Salerno, amministratore delegato di Arti Grafiche Boccia. Tra l'altro la sua prima dichiarazione racconta al Sole 24 Ore: la complessità, le difficoltà che abbiamo di fronte non ci concedono il lusso di litigare. Queste le sue prime parole, in qualche modo una risposta anche a Montezemolo, che da presidente dell'Italia e che sosteneva l'altro candidato Vacchi, ha dichiarato dopo l'elezione: ho rammarico di vedere una Confindustria spaccata e che ha perso una straordinaria opportunità di rinnovamento. Risposta, parola alle quali ha risposto lo stesso presidente designato Boccia, nonché anche Emma Marcegaglia, presidente Eni, che invece ha sostenuto Boccia e che dice lui saprà creare la giusta discontinuità, e anche se c'è stato uno scarto di pochi voti, sono convinta che la Confindustria si compatterà anche questa volta. Comunque ora poi ci sarà tempo per formare la squadra per la nuova leadership degli industriali. Vorrei sul tema economico leggervi l'editoriale di prima pagina del Corriere della Sera di Ferruccio De Bortoli, perché racconta, sotto il titolo L'illusione dello Stato trasparente, di una legge imperfetta. È questa. Racconta De Bortoli, un piccolo ma prezioso termometro dello stato di salute di democrazia italiana, racchiuso in un provvedimento semi sconosciuto adottato dal governo in via preliminare il 20 gennaio. È il diritto di ogni cittadino ad accedere agli atti della pubblica amministrazione, la versione italiana del Freedom of Information Act, che negli Stati Uniti esiste dal 1966. E pensate, senza quelle norme in America, tanto per fare un esempio, non avremmo avuto l'inchiesta del Boston Globe sui preti pedofili, scrive De Bortoli, da cui è stato tratto tra l'altro il film premio Oscar Spotlight. Va dato atto al governo, in particolare a Renzi, scrive De Bortoli, e al ministro Madia, di averne fatto una bandiera. Peccato che questo vessillo di libertà sia stato velocemente ripiegato nel testo varato a inizio anno, al contrario, ed esprima tutto il potere discrezionale di cui la burocrazia italiana è ghiotta. Perché? All'articolo 6 di questo decreto la legge dice che chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni. Bene. Peccato però che l'elenco delle eccezioni sia sterminato. Alcune, sicurezza, difesa, relazioni internazionali, sono condivisibili, ma altre meno. Il limite della tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti forma una categoria talmente vasta da porre il diritto del cittadino a conoscere l'iter di un atto, i tempi, i costi della sua esecuzione in una condizione di palese inferiorità, alla stregua di una curiosità molesta. La legge non identifica un responsabile unico cui rivolgersi, non c'è uno sportello. Inoltre la mancata risposta dopo 30 giorni alla domanda di un singolo cittadino configura una sorta di silenzio rigetto privo di sanzione. Insomma, scrive De Bortoli, è una illusione di trasparenza perché il principio è buono ma poi è stato depotenziato e ne scrive in prima pagina sul Corriere della Sera. Oh, devo parlare ancora delle amministrative? Ci sono dei dettagli sulle amministrative, riguardano sempre il caso Bertolaso. Ormai siamo veramente alla telenovela. Berlusconi, che pubblicamente a una radio romana dice: Bertolaso è lui, lo sosteniamo, ma che gaffe, lui è un uomo concreto. Questo pubblicamente, mentre racconta il Corriere della Sera, lo ha convocato in gran segreto ad Arcore. Ernesto Menicucci racconta pagina 13 a dirgli: basta gaffe. Berlusconi striglia Bertolaso, squadra più forte, basta gaff. Le ha detto: così va male, i sondaggi vanno malissimo, però andiamo avanti fino al 15 aprile, poi decidiamo. Però bisogna allargare la squadra, ti devi fare aiutare. E gli ha messo dei tutor, così li definisce il Corriere, li vuol mettere dei tutor. Antonio Tajani, già commissario europeo, e Francesco Giro, senatore, a lungo coordinatore in Lazio di Forza Italia. E dunque Berlusconi vuole affiancare a Bertolaso dei comunicatori, c'è anche la scelta, stanno cercando un giornalista, un professionista da cercare nella rete berlusconiana, il casting è aperto, fate parte della rete berlusconiana, volete fare il comunicatore di Bertolaso, il casting è aperto, sappiatelo, cari colleghi. E invece, se vogliamo andare alle notizie estere, beh, c'è ancora due pagine nel Corriere della Sera sulla Libia, dove c'è l'inviato Francesco Battistini che racconta quello che sta succedendo, perché per la verità si è insediato il governo al-Sarraj con un po' di difficoltà. All'inizio si diceva spari in strada, ora si minimizza dicendo ma no, erano fuochi d'artificio per festeggiare il suo ritorno. Comunque i fucili restano in strada, la situazione è un pochino più tranquilla, ma, come dire, tutti sulle spine, sul chi va là a vedere che succede. La notizia che mi ha colpito invece viene dalla Polonia. Ieri parlavamo di Trump, in America non si parla d'altro, mi dicono, almeno dell'ultima uscita, sul fatto che le donne che abortiscono dovrebbero essere punite qualora l'aborto fosse reso illegale negli Stati Uniti, come Trump in qualche modo auspica. Ebbene, ora più vicino a noi, in Polonia, racconta Andrea Tarquini su Repubblica, vogliono vietare l'aborto. L'annuncio della premier Beata Szydło: nella cattolica Polonia l'aborto dovrà essere totalmente proibito. La nuova linea della maggioranza di governo nazional conservatrice, giunta al potere dopo le legislative di ottobre. La Premier lo ha detto in un'intervista radiofonica, schierandosi a favore della raccolta di firme per raccogliere almeno 100.000 adesioni e chiedere una decisione del Parlamento. Già oggi in Polonia le leggi sull'interruzione di gravidanza sono tra le più restrittive e severe d'Europa, insieme a quelle in vigore in Irlanda e a Malta, perché attualmente se una donna richiede di abortire può farlo esclusivamente in casi estremi, cioè se il feto ha malattie o malformazioni gravissime e incurabili o in caso di gravidanza causata da stupro o incesto. Ma insomma l'idea è abolire l'aborto. Questa è la linea politica della Polonia. Siamo alla carta costa? L'articolo più inutile scovato sui giornali oggi vince una pagina del giornale del mio amico Paolo Bracalini. Donne, viaggi, ecco il volto inedito del bello dei grillini. È una pagina che parla di un'intervista di Di Battista sulla rivista Visto. Non avete capito niente tra Visto, Vista, rivista, Visto, ma... Di Battista si confida su Visto, l'amore per la fidanzata Ana, la passione per la cucina, mia madre che critica il mio abbigliamento, e il giornale ci fa una pagina. Ma chi se ne frega!